Allora, siamo al telefono con Akasha per parlare dell'uscita del secondo album, Rifiorirai. Intanto, ciao, come stai? Ciao, grazie, molto bene. Tu come stai? Tutto bene, grazie. Ecco, da dove viene il nome Akasha, che poi è scritto AKA5HA tutto maiuscolo? Da dove viene? In realtà è un nome che viene scritto tanto tempo fa, quando ero ancora, diciamo, solo un produttore, una cosa che mi porto dietro, ed è un nome in realtà che deriva dall'Oriente, e in pratica sarebbe un elemento che sarebbe appunto il quinto, da lì veniva il numero, che sta a rappresentare l'aria, e venne da lì, e poi nel tempo l'ho tenuto perché ormai, insomma, mi identifico, le persone mi chiamano così. Nome molto bello e interessante. Ecco, tu parlavi anche di produzione, hai scritto anche brani, musica almeno di brani anche per altri, e in Rifiorirai hai collaborato anche con Io Sono Un Cane. Ecco, come è nata la collaborazione con lui e come è andata anche? Ora, con lui la collaborazione è nata nel più classico dei modi, cioè che ho mandato un'email e ho ricevuto una risposta, e poi è stato un processo abbastanza lungo che è durato più di 2 anni, in cui abbiamo lavorato per un lungo periodo, lunghi e grandi feedback e chiacchierate, e poi è diventato un effettivo lavoro nell'ultimo periodo, dopo in studio insieme per lavorare al disco. Ecco, a proposito del disco, dicevamo Rifiorirai, è un disco che mescola delle sonorità che possiamo definire molto moderne e altre che però sono anche abbastanza retro. Poi tu di tuo sei anche pianista, quindi che è un suono che, diciamo, non si trova moltissimo nella musica di oggi. Ecco, quali sono le tue influenze musicali e come racconteresti il genere musicale che proponi? Allora, le mie influenze sono tantissime, molto diverse, perché appunto venendo da un ambito più urban e poi da tanti altri ambiti che poi ho riscoperto nel tempo approfondendo, quindi sono stato veramente, ho studiato veramente tante cose diverse, studiato nel senso ascoltato poi, tante cose diverse, a partire dalle cose più elettroniche come Aphex Twin, più classiche, Floating Point, Moderna, cose del genere, a cose molto più classiche, passando dall'alternative generale a cose soprattutto all'estero, e tutte queste cose poi alla fine sono nel tempo ad oggi, dopo che le ho un po' rimesse in ordine in quello che effettivamente negli anni è permeato dentro di me, le ho messo un po' in ordine in quello che ad oggi è quello che è, che faccio veramente fatica a definirti in un genere, e sicuramente vicino al cantautorato ti direi, nel senso che poi la voce, soprattutto in questo lavoro, è una cosa che dà un filo conduttore al tutto. Dicevamo, tu hai iniziato come produttore, quindi hai prodotto vari album. Quando hai deciso di trasformare la tua parte musicale di produttore, diciamo, in quella di cantautore e di creatore della tua stessa musica? Ma in realtà è stato un processo molto naturale, nel senso che è arrivato per me un momento in cui volevo esprimere al 100% qualcosa, e l'unico modo di farlo era, insomma, prendere il possesso anche delle parole, metterle in ordine come un po' pareva a me, che è un lavoro in realtà non semplice, ho scoperto negli anni. L'8 novembre hai presentato questo Rifiorirai, il tuo secondo album, qui a Bologna, da Bauhaus, insieme ad un cortometraggio. Ecco, intanto com'è andata quella data e di cosa si tratta in questo cortometraggio? Ah, la data è andata benissimo, c'erano tantissime persone che in realtà neanche mi aspettavo, e quindi sono molto contento. Voglio davvero ringraziare tutti per quella serata, soprattutto il Bauhaus per aver messo a disposizione il posto. E il cortometraggio in realtà nasce da una collaborazione con Simone Peluso, che è un mio caro amico con cui collaboro da tempo, dato che anche lui aveva in questo periodo questa esigenza di spostarsi, diciamo, anche lui più sulla parte autoriale, quindi iniziare a esplorare il mondo del cinema, del cortometraggio, lungometraggio che sia. Ci siamo trovati insieme nel voler lavorare a una qualcosa che non fosse, che fosse qualcosa di più di un videoclip, soprattutto a livello narrativo, e quindi abbiamo colto l'occasione per fare poi quello che è Talea. Gli ho dato degli input narrativi, e poi appunto volendo che la sua scrittura risaltasse in un qualche modo, poi tutto quello che riguarda la scrittura è stato scritto da lui. E questo cortometraggio, videoclip cortometraggio, lo troviamo sulle piattaforme, immagino? In questo momento no, perché poi disco e cortometraggio avranno due vite separate, è stato online per qualche giorno, l'abbiamo proiettato là, però stiamo pensando a tutto un suo percorso che stiamo ancora definendo. Perfetto, allora resteremo in attesa. E ti chiedo, hai già altre date in programma per presentare l'album o siamo in attesa? In questo momento siamo ancora in attesa, stiamo lavorando, ma insomma l'intenzione è quella. Rifiorirai, secondo album di Akasha. Io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità. Chiaramente seguitelo sui social, così scopriamo anche se questo album avrà dei live nel prossimo periodo. Ti chiederei, prima di salutarci, un brano tratto dall'album per quello che magari vuoi raccontarci un pochino di più, di scegliere un brano dal tuo album. Scegliere un brano, oddio. Lo so che non è mai semplice. Che dire, forse te ne direi forse due, da poi scegliere tu quello che vuoi, a seconda di quello insomma che vuoi, come vorresti finire. Secondo me le cose interessanti potrebbero essere Magia, che è il brano sicuramente più acceso del disco, quello un po' che ha aperno a metà del disco per poi introdurre la seconda metà, oppure Senza, che invece è il secondo brano del disco, che è forse il mio preferito, ma perché c'è tanta sonorità nerd elettroniche che piacciono a me. Perfetto, allora ti direi che Magia magari la metto all'inizio dell'intervista e Senza ce l'ascoltiamo invece adesso. Io ti ringrazio tantissimo. Ti ringrazio. Akasha, Rifiorirai, insomma andate a scoprirlo. Grazie mille. Grazie mille a te, davvero.